signorina, le dirò con due parole, chi sono, chi sono, e che faccio vivo. Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. In povera età mia lieta, caro da gran rivedimmi l'amore per sogni e per chimere, e bene castelli in aria, l'anima you.